detto che sarebbe stato sempre più difficile ingannare il mondo con quella tua bella faccia insospettabile. Ora sai che nessuno ti sosterrà quando finalmente anche l'ultima fortezza crollerà. Che nessuno ti fermerà.